Italia in controluce. Buona mattina da Daniele Biacchiesi. Oggi è il 13 di giugno e si apre una nuova settimana di Italia in controluce. Raccontare il paese attraverso gli occhi dei nuovi sindaci usciti vincitori alle ultime elezioni amministrative. Jacopo Matano si sposta oggi nel nord-est. Intervista a Claudio Pedrotti, nuovo sindaco di Pordenone. Abbiamo puntato su elementi che da un lato garantivano continuità, ma dall'altro facevano chiaramente recepire alla città che avevamo la chiara misura dei problemi della città stessa. Pordenone, che era una città giudicata piuttosto poco incline alla cultura, è diventato un centro che per le sue dimensioni è sede di momenti durante l'anno molto significativi e abbastanza noti, come Pordenone Legge, che chiama 200.000 persone. Il secondo punto è quello delle politiche sociali, e audite audite, noi abbiamo il 16,2% della popolazione composta da immigrati. Quindi una percentuale molto alta di immigrati, a dispetto del fatto che la Lega sembra aver abbassato il proprio livello di consenso in città, adesso è circa al 10%. Lei come se lo spiega? Vuol dire che insomma c'è una mentalità aperta, no? Qui, molto più orientata nei fatti a gestire fenomeni dal punto di vista sociale complessi. Se lei aggiunge che noi siamo una zona fortemente industrializzata, dove i metalmeccanici hanno un peso enorme, dove c'è una crisi molto molto sofferta, noi abbiamo inserito nel nostro programma un'attenzione verso lo stimolo del lavoro, l'esserci in ogni posto dove il lavoro possa essere creato, che ha dato un chiaro segnale che i problemi li capiamo e come. A questo proposito, un recente studio ha dimostrato che Pordenone è la città più cara del Friuli Venezia Giulia e una delle più care in Italia. Quali sono le misure che metterete in campo per le famiglie che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese? Lì siamo andati davvero in dettaglio, si parla di aiuti sugli affitti rispetto a quelli che sono stati dati già, abbiamo parlato di speciali voucher da giocare alle famiglie per quanto riguarda la spesa. Faccio notare che molto spesso queste persone, questi nuovi poveri, non sono quelli che si presentano nelle parrocchie, che comunque vengono sostenute dal comune, anche quelle, per prendere le borse, no? Con dentro gli alimenti, si vergognano, sono persone che hanno una certa ritrosia a manifestarsi. Per questo abbiamo cercato di pensare a delle formule di aiuto non particolarmente invasive. E come ogni lunedì a quest'ora cedo la linea a Piera Ceci per Scuola in Controluce. Scuola in Controluce. 20.000 studenti in un vicolo cieco, stiamo parlando degli iscritti ai corsi di scienze della formazione dal 2008 in poi. Questi studenti alla fine del loro percorso saranno abilitati ad insegnare, ma non possono entrare nelle graduatorie ad esaurimento, quelle che servono per accedere all'insegnamento, alle supplenze, al posto fisso. Insomma, una beffa, hanno tutti i requisiti per insegnare, ma non possono. Marcello Pacifico del sindacato docenti precari ANIEF al microfono di Romolo Napolitano. Purtroppo sì, cioè hanno acquisito un titolo rilasciato dallo Stato, perché per accedere ai corsi di laurea a scienza della formazione primaria e ottenere l'abilitazione sono corsi di laurea a numero chiuso, quindi hanno superato un esame di accesso, hanno conseguito un titolo abilitante che gli rimane, diciamo, nel cassetto, gli possono fare se vogliono un quadretto, ma poi in realtà non lo possono spendere. E lo Stato ha pure finanziato questi corsi che sono a numero chiuso, quindi ha specializzato queste persone, così come coloro che hanno fatto i corsi di strumento musicale o coloro che si sono iscritti presso le accademie per abilitarsi in storia dell'arte, ha abilitato quindi più di 20.000 persone e li ha lasciati da allora ad oggi fuori dalle graduatorie. In questo momento noi li abbiamo aggiornate per i prossimi 3 anni, loro sul nostro consiglio hanno fatto domanda anche di inserirsi con riserva, ma purtroppo se non c'è un provvedimento del Parlamento che sana la questione dando una giustizia a coloro che lo Stato ha formato per andare a insegnare, se non interviene il Parlamento queste persone potranno soltanto fare il ricorso e aspettare un giorno di avere ragione dei giudici. Migliaia dunque gli aspiranti insegnanti rimasti fuori da ogni graduatoria nonostante abbiano tutte le carte in regola. Laura Lento è una di queste, anche se lei per fortuna insegna già grazie al diploma magistrale e si era iscritta a Scienze della Formazione per ottenere il cosiddetto posto fisso. Sentiamola al microfono di Romolo Napolitano. Io mi sono iscritta perché i sindacati confederali ci dissero di iscriverci, perché era l'unica soluzione per poter entrare di ruolo. Quando nel 2009 si aprirono le graduatorie io andai per chiedere di essere inserita e mi dissero: non ti preoccupare, quest'anno non tocca a voi toccherà tra 2 anni.